Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi parla alla Knesset, Israele unico esempio di democrazia in Medio Oriente. Fiat sciopero in tutto il gruppo, Scajola sugli incentivi auto, stiamo valutando. Legittimo impedimento, oggi il voto a Montecitorio. Le rivelazioni sul crack costano care a Morgan e fuori da Sanremo, parla a Radio 24 Claudia Mori, decisione sbagliata. Buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Dunque, in primo piano lo storico discorso di Berlusconi alla Knesset. Grande commozione del Presidente del Consiglio. Partiamo da qui, in diretta con la Knesset, con Virginia Di Marco. Nel terzo e ultimo giorno della sua visita in Israele, per il primo vertice bilaterale italo-israeliano, Berlusconi torna ad attaccare duramente l'Iran e a fare appello alla comunità internazionale affinché al più presto agisca con sanzioni in grado di stoppare le ambizioni nucleari del regime iraniano. Berlusconi ha ricordato anche che Israele è il simbolo della democrazia in Occidente e che, come disse anche il Papa Giovanni Paolo II, il popolo ebraico è il nostro fratello maggiore. E ha parlato anche del rapporto Goldstone, il controverso rapporto fatto stilare da una commissione delle Nazioni Unite su supposti crimini di guerra commessi a Gaza dall'esercito israeliano. Sentiamo che cosa ha detto. L'Italia si onora di molti gesti di solidarietà verso il vostro paese, come ad esempio il rifiuto del nostro governo a partecipare alla conferenza Durban 2 di Ginevra, che voleva sanzionare Israele con intollerabili accuse di razzismo e di violenza. Così come il nostro voto contrario al rapporto Goldstone, che il primo ministro ha ricordato, che intendeva criminalizzare Israele per la reazione giusta ai missili di Hamas lanciati da Gaza. Oggi pomeriggio Berlusconi è invece atteso a Betlemme, nella mucata di Betlemme, dove incontrerà il leader dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Virginia Di Marco. E le parole del Premier contro l'Iran, ribadite, lo avete sentito oggi alla Knesset, hanno provocato un caso diplomatico. Sono piaciute alla stampa israeliana ed anche al governo israeliano le parole di Silvio Berlusconi, che si è detto convinto della necessità di intensificare l'attività internazionale per inasprire le sanzioni all'Iran e sostenere l'opposizione al governo Ahmadinejad. Affermazioni che ovviamente, al contrario, Teheran contesta. Non aiuteranno a risolvere i problemi, ha detto il portavoce della Commissione Affari Esteri e Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Al contrario, li renderanno più complicati. Oggi intanto l'Iran ha annunciato di aver lanciato con successo un razzo vettore per satelliti, ha presentato altri progetti aerospaziali e ha parlato di un'arma speciale in grado di abbattere i famosi elicotteri statunitensi Apache. Notizie quindi poco rassicuranti per la comunità internazionale, che incassa l'unica apertura tra le pieghe di una intervista rilasciata dal presidente iraniano alla televisione pubblica. Non ci sono problemi ad inviare il nostro uranio all'estero per arricchirlo, ha detto Ahmadinejad, senza però specificare né quando né quanto uranio. Laura Bettini, GR24, il sole 24 ore. E sin qui la cronaca, ma adesso commentiamo il discorso molto atteso del Premier Berlusconi in diretta con Ugo Tramballi. Buona giornata Ugo. Allora, tanti i temi toccati. Quanto pesano le parole di Berlusconi? Oggi pomeriggio, poi lo abbiamo anche ricordato, ci sarà l'altro incontro importante. Berlusconi nel suo discorso ha affrontato i tre temi fondamentali della sua agenda, cioè l'antisemitismo, l'Iran e il tentativo di ripresa del processo di pace. Li ha tutti sviluppati anche con grande calore, dimenticando una sola cosa, direi, Gerusalemme. Se Abu Mazen, che lui oggi invocherà, cioè chi, come ha spiegato lo stesso Berlusconi, quasi chiederà in ginocchio di tornare all'altra trattativa con Bibi Netanyahu, se Abu Mazen appunto non torna alla trattativa, cosa che comunque dovrebbe fare perché è sempre molto più utile tornare alla trattativa che andare sugli Aventini, in ogni caso se non torna alla trattativa proprio perché Bibi Netanyahu ha congelato la costruzione degli insediamenti nel territorio della Cisgiordania, ma non a Gerusalemme Est. Per i palestinesi, per la comunità internazionale, Gerusalemme Est dovrebbe essere la capitale della Palestina. Questa cosa Berlusconi l'ha ignorata, spero che non l'abbia ignorata però nei colloqui con politici diretti con Bibi Netanyahu. E poi ha aggiunto un'altra cosa che è piuttosto diversa rispetto alla, diciamo, alla linea politica della comunità internazionale, soprattutto degli europei e degli americani, e cioè quando ha definito giusta la reazione israeliana alla guerra, nella guerra di Gaza, ai bombardamenti, ai lanci di Qassam palestinesi. E nessuno ha mai contestato in Occidente il diritto di Israele di difendersi e quindi anche di reagire a quei lanci continui di Qassam, però il modo col quale Israele lo ha fatto è, come dire, sotto critica, mentre invece Berlusconi ha voluto dimostrare che invece è stato giusto in tutti gli aspetti. Certo, comunque Berlusconi ha fatto un buon discorso in generale, soddisfacendo praticamente tutto lo spettro politico israeliano. Adesso bisognerà vedere, appunto, oggi pomeriggio se riuscirà a soddisfare anche Abu Mazen, nel senso che è difficile che Berlusconi riesca a convincere Abu Mazen a tornare alla trattativa, poiché non ci sono riusciti nell'ordine Barack Obama, il suo negoziatore e il presidente egiziano Mubarak. Staremo a vedere, grazie a Ugo Tramballi per il commento delle parole del Premier pronunciate dinanzi alla Knesset. Noi restiamo all'estero con una notizia dell'ultima ora. Una bomba è esplosa proprio pochi minuti fa contro una pattuglia di militari italiani in Afghanistan. Un soldato ha riportato un sospetto trauma cranico, mentre gli altri quattro che erano a bordo del blindato Lince solo leggere contusioni. Ovviamente nel corso di questa edizione delle prossime vi forniremo tutti i dettagli su questo attacco ai militari italiani ancora in Afghanistan. Tensioni anche tra Cina e Stati Uniti sulla visita in America a metà febbraio del Dalai Lama, leader spirituale tibetano in esilio. Ne parleremo, vi ricordo, in America 24 con Mario Platero alle 13:45. Adesso in Italia con l'emergenza lavoro, anche di questo ha parlato il ministro Scajola durante la riunione al Ministero dello Sviluppo Economico, della quale parleremo tra pochissimo, dedicata all'energia. Oggi però, soprattutto, l'avete sentito nei nostri titoli, c'è lo sciopero di 4 ore in tutti gli stabilimenti della Fiat. Nuova giornata di sciopero oggi per i metalmeccanici Fiat. In ballo c'è sempre il destino di Termini Imerese e per non abbassare l'attenzione in vista del nuovo incontro in calendario per dopodomani a Palazzo Chigi, i sindacati hanno indetto 4 ore di sciopero nello stabilimento siciliano ma anche in tutti gli altri siti produttivi del gruppo. La FIOM parla di adesione massiccia tra il 50 e l'80% a Termini, dove la produzione risulterebbe bloccata, ma anche a Mirafiori, dove i lavoratori hanno dato vita ad assemblee spontanee e sit-in fuori dai cancelli. Adesione quasi totale, sempre secondo fonti sindacali, alla Maserati e alla CNH di Modena, mentre la Fiat di Pomigliano, dove la produzione è ferma e i lavoratori sono in cassa integrazione, lo sciopero è rinviato. Per questo la protesta si è spostata davanti al comune, una protesta storica, hanno sottolineato i sindacati, perché per la prima volta insieme a FIM, FIOM e UILM c'è anche l'UGL. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore, Torino. E anche di Fiat, lo abbiamo anticipato prima, ha parlato oggi il ministro Scajola alla presentazione del rapporto sull'energia al Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale ci colleghiamo subito in diretta con la nostra Maria Chiara Grandis. Maria Chiara. Sì, buongiorno. Iniziamo subito dal rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia che esprime un giudizio positivo sulla politica del governo in materia. Il rapporto parla di progressi in diversi settori per il nostro Paese, ad esempio programmi per il risparmio energetico, riorganizzazione del mercato elettrico e del gas, incentivi per le rinnovabili. D'altra parte evidenzia anche le sfide che riguardano l'Italia. La sicurezza energetica prima di tutto, se pensiamo che la dipendenza dalle importazioni è al 92% dell'approvvigionamento. Ancora è necessario limitare le emissioni di CO2. In questo senso l'agenzia si esprime a favore del programma nucleare italiano e, come dicevate, è intervenuto anche il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Ha confermato che la prima centrale nucleare sarà attiva entro il 2020. A margine poi ha toccato tutti i temi caldi dell'economia e del lavoro nel nostro paese. Sul rinvio dell'accordo con Alcoa ha ribadito che il governo non accetterà decisioni unilaterali e che la multinazionale subirà tutte le conseguenze di una scelta frettolosa. Su Telecom Telefonica il ministro ha detto che si valutano azioni possibili nelle prossime ore. Sul caso Fiat ha invece dichiarato che si sta valutando se gli incentivi siano utili oppure un fenomeno distorsivo per il mercato e ha anticipato un incontro con i ministri dell'industria europei in Spagna lunedì prossimo. È evidente che la Fiat debba riorganizzare la produzione e c'è spazio per Termini Imerese, dice Scajola. L'obiettivo del governo resta quello di aumentare la produzione di auto in Italia. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie a Maria Chiara Grandis. La Commissione europea, pur dando il via libera al piano anticrisi messo a punto dalla Grecia, mette Atene sotto stretta sorveglianza per evitare che ci possano essere ritardi sulla tabella di marcia che prevede il ritorno del deficit greco sotto il 3% entro il 2012. E di crisi economica si è parlato questa mattina nella sede del Sole 24 Ore con Moises Naim, economista e politico, caporedattore del periodico Foreign Policy. Sentiamolo al microfono di Anna Marino. Questo tema del deficit tra una domanda globale che si espande di attuazione collettiva e un bloccaggio di questa capacità è evidentemente molto importante. E questo lo vedremo anche, lo stiamo vedendo nel sistema finanziario, che è un'altra area dove è impossibile che nessun paese possa attuare da solo efficacemente. Il sistema finanziario è mondiale, interconnesso. Due cose succedono in queste altre crisi: una, che le economie si recuperano molto più presto di quello che nessuno pensava, e due, che si scopre che il ridisegno dell'architettura finanziaria mondiale è molto più difficile di quello che nessuno credeva. Allora incominciano, si abbandona quella idea e tutti gli sforzi di riforma incominciano a essere si abbandonano. Una cosa più o meno così sta succedendo adesso, continuerà a succedere. Torniamo alla politica. Notizia di poco fa: il governo Berlusconi potrà crescere ancora spostando l'asticella da 63 a 65 membri. Lo prevede un emendamento al decreto sulla fine delle emergenze in Abruzzo per il terremoto ed in Campania per i rifiuti e sulla riorganizzazione della protezione civile. L'altro tema in primo piano resta la legge sui pentiti. È tornato a parlarne questa mattina da Monza il ministro Maroni. In diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Il ministro dell'Interno boccia il rapporto di Medici Senza Frontiere sul trattamento degli immigrati all'interno dei centri di identificazione ed espulsione. Si tratta di un rapporto basato su pregiudizi ideologici, spiega Maroni, che non corrisponde al vero quando dice che non sono garantiti diritti nell'assistenza sanitaria e che i clandestini sono trattati male. Il responsabile degli interni, durante una conferenza stampa al Comune di Monza, dove ha firmato il patto per la sicurezza, ha quindi aggiunto: non pretendo che qualcuno sia felice di stare in questi centri, ma chi arriva clandestino in Italia sa che starà lì per sei mesi e che poi sarà rimpatriato nei centri. C'è però assistenza sanitaria, c'è l'intervento della Croce Rossa, c'è la libertà per chiunque di entrare. Maroni ha quindi confermato che si stanno individuando altri 10 siti per istituire altrettanti nuovi centri in regioni che ne sono sprovviste, e ciò verrà fatto, ha detto ancora il ministro, con un protocollo d'intesa con la Croce Rossa, chiamata a collaborare alla gestione. Quanto alla disciplina dei pentiti, il ministro dell'Interno ha annunciato che non ci saranno cambiamenti. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Dunque, due i temi importanti, quello dell'immigrazione e quello della legge antipentiti. Il nostro sondaggio adesso è dedicato oggi agli OGM, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato il via libera ad un coltivatore della provincia di Pordenone che chiedeva di seminare un mais geneticamente modificato prodotto dalla multinazionale Monsanto. Vi chiedevamo: voi sareste disponibili ad introdurre gli OGM nell'agricoltura in Italia? Hanno prevalso nettamente i no con l'89%. Le 13:16, ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del discorso di Berlusconi alla Knesset. Berlusconi è tornato anche sui temi dell'Iran e le sue parole non sono piaciute nel paese iraniano, ma Berlusconi ha toccato tanti temi importanti. Con Ugo Traballi abbiamo commentato le parole del suo storico discorso. Abbiamo parlato lungamente di Fiat, oggi sciopero di 4 ore in tutto il gruppo. Il ministro Scajola ha precisato che sugli incentivi auto si sta valutando. E poi abbiamo parlato di questa ultima ora che arriva da Herat, dove una pattuglia del contingente italiano è rimasta coinvolta questa mattina in un'esplosione. Un militare ha riportato un sospetto trauma cranico, mentre solo leggere contusioni si registrano per altri 4 militari italiani. Adesso parliamo delle altre notizie di politica, a partire da Montecitorio, dove oggi si vota il legittimo impedimento. Alessandra Schepisi in diretta. Alessandra. Sì, buongiorno, è addirittura ad arrivo il provvedimento che permetterà al Premier, ma anche ai ministri, di saltare i processi penali a loro carico. Non è infatti passato un emendamento delle opposizioni che puntava a escludere l'estensione della norma ad altri componenti del governo. Il dibattito è ripreso questa mattina, il voto finale ormai scontato sarà nel pomeriggio, un provvedimento definito ponte dallo stesso centrodestra, il vice capogruppo del PDL alla Camera, Italo Bocchino. Il legittimo impedimento è una norma ponte che dà 18 mesi al Parlamento per dar vita ad una riforma costituzionale. Useremo questi 18 mesi per una riforma complessiva che il ministro Alfano sottoporrà al Parlamento e per fare il lodo Alfano costituzionale. Nel frattempo discuteremo serenamente e senza nessuna fretta sul cosiddetto processo breve. La maggioranza è compatta, le opposizioni invece sono divise, da una parte l'UDC che si asterrà, dall'altra PD e Italia dei Valori che attaccano il provvedimento definendolo incostituzionale e ad personam. E mentre nell'aula della Camera si discute, fuori va in scena anche oggi la protesta degli operai degli Alcoa, una situazione che fa parlare così Franceschini del PD, sentiamolo. È veramente brutto vedere davanti al Parlamento persone che vengono a manifestare per chiedere il diritto al lavoro, perché vedono di fronte a loro la disperazione e la paura, e contemporaneamente dentro il Parlamento la discussione ancora una volta solo su un provvedimento per il Presidente del Consiglio. Ci sono ancora molti emendamenti da esaminare, ricordiamo che PD e Italia dei Valori ne hanno presentati quasi 300, ma i tempi sono contingentati, alle 17 le dichiarazioni di voto, subito dopo la votazione finale. E da Montecitorio è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra, e noi parliamo del caso Morgan. Dopo le dichiarazioni poi smentite sull'uso quotidiano di crack, la RAI ha escluso il cantautore da Sanremo. Adriana Fracchia poco fa ha intervistato Claudia Mori, la moglie di Adriano Celentano, sua collega nella giuria dell'ultima edizione di X Factor. Riguardo l'esclusione, io penso che sia sbagliato, cioè sbagliato perché è chiaro che drogarsi è una delle cose più brutte e sbagliate, e che quindi la droga fa malissimo, ma questo lo sanno anche i ragazzi e chi si droga, che la droga fa male. Non mi piace tutta questa alzata di scudi che dà molto l'idea dell'ipocrisia, perché poi tra l'altro non serve fatto in questa maniera, perché non c'è dietro un ragionamento, cioè questa potrebbe essere una delle rare occasioni dove si potrebbe insieme fare un ragionamento più profondo. Perché tanta gente e tanti ragazzi si drogano? Ci sarà un problema, è come dire, insomma, bisogna curare il motivo, non soltanto la malattia, ma il motivo perché avvengono certe cose. Allora, cogliamo l'occasione per una dichiarazione di Morgan che fa male prima di tutto a lui e fa male a tutti, per ragionare, per capire perché, per cercare di capire perché c'è tutta questa diffusione di droga. E quindi invece l'esclusione non fa altro che ipocritamente far sentire dalla parte giusta, come dire, e allinearsi con il regime politico. Quindi questo allinearsi con il regime politico non mi piace. Poi comunque la decisione deve esserci, perché non è che io sto salvando quello che ha detto Morgan. Morgan ha detto una cosa grave, è una specie di grido di dolore, di grido di aiuto da parte sua. Che aiuto gli si dà? Cacciandolo fuori di casa, sbattendolo in mezzo a una strada. Io quando vedo una persona in difficoltà credo che si dovrebbe aiutare. L'emarginazione non serve ed è sbagliata, questo è quello che penso. Così dunque Claudia Mori sull'esclusione di Morgan dal Festival di Sanremo. Noi torniamo invece alla cronaca. Via libera dal plenum del CSM alla richiesta di un incremento dei magistrati in forza a Reggio Calabria, avanzata nei giorni scorsi dal Ministero della Giustizia. I consiglieri all'unanimità si sono detti d'accordo all'invio di 2 toghe di rinforzo alla Procura Generale e di 2 al Tribunale. E per la cronaca italiana noi restiamo proprio a Reggio. Sono 32 italiani e 35 indiani le persone coinvolte nell'operazione denominata Leone, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria contro un'organizzazione criminale che gestiva un traffico di immigrati clandestini. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Reggio Calabria, che insieme allo SCO ha eseguito 67 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della DDA. È stato accertato che alla gestione del traffico di immigrati clandestini avrebbero partecipato due cosche dell''Ndrangheta, entrambe della zona ionica, quelle dei Cordi di Locri e degli Iamonte di Melito Porto Salvo. A tutti gli arrestati è stato contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolare a quelle della cosca Cordi, la DDA ha contestato anche l'aggravante delle modalità mafiose. Filippo Veltri, GR24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. E l'operazione della DDA di Reggio ha messo in evidenza nella gestione del traffico di immigrati clandestini il ruolo dell''Ndrangheta e dei cosiddetti colletti bianchi, come conferma al microfono di Maria Luisa Pezzali il dirigente della squadra mobile di Reggio, Renato Cortese. Alcuni soggetti colpiti dal provvedimento di custodia cautelare sono stati colpiti anche dall'articolo 7, l'aggravante mafioso. È stato documentato che alcune famiglie sul versante ionico della provincia reggina avevano interesse nella gestione di questo traffico e sicuramente introitavano somme di denaro anche cospicue nella gestire questa vicenda. Complicità degli imprenditori, abbiamo detto, ma anche di dipendenti dell'ufficio provinciale del lavoro, è così? Sì, questa indagine ha messo in luce che c'è una complicità di alcuni soggetti operanti negli uffici pubblici che lei ha detto e sono appunto stati colpiti da provvedimenti cautelari, ma tenga presente che su un territorio come quello calabrese e in queste vicende, se non c'è una complicità, alcune vicende diciamo oscure non possono andare a buon fine. Hanno necessariamente bisogno di questi che noi chiamiamo i colletti bianchi, in questo caso c'è una piccola dimostrazione. È durata poco la prima udienza del processo per il delitto di Simonetta Cesaroni in via Poma a Roma. Il processo è stato rinviato al 16 febbraio. In aula si è presentato l'unico imputato, Raniero Busco, l'ex fidanzato all'epoca dei fatti della ragazza. Protagonista dell'udienza, la moglie del tecnico all'Italia Busco, Roberta Milletari. Non abbiamo nulla da nascondere, ha detto ai cronisti, spero sia l'inizio della fine di un incubo. Nella prossima seduta, quella del 16, saranno ascoltati la mamma, la sorella e l'ex fidanzato di quest'ultima. E vi ricordo che del delitto di via Poma si tornerà a parlare tra pochissimo in Italia in controluce. Aggiornamenti, ancora aggiornamenti, ultima ora che arriva da Berlino, dove il ministro tedesco delle finanze Schäuble ha rivolto un appello agli evasori fiscali ad autodenunciarsi prima che il governo tedesco faccia ricorso ad un CD offerto da una talpa contenente i dati di circa 1500 evasori tedeschi con denaro in istituti bancari elvetici. Non posso che consigliare a tutti coloro che hanno frodato il fisco di autodenunciarsi, ha dichiarato il ministro conservatore. Nei giorni scorsi il ministro, supportato dalla cancelliera Angela Merkel, aveva espresso la volontà di acquistare la lista nonostante la contrarietà delle autorità elvetiche, una vicenda della quale abbiamo discusso abbastanza nei giorni scorsi. Adesso noi ci colleghiamo con la fiera di Milano Ro per Made Expo, che è iniziata oggi e della quale vi ricordo torneremo a parlare anche nei prossimi giorni. Ci colleghiamo in diretta con Paolo Piacenza. Paolo. Sì, buongiorno Renita, buongiorno agli ascoltatori. Ha preso il via dunque la terza edizione di Made Expo, la principale fiera internazionale dedicata al settore della progettazione edilizia e delle costruzioni. 1700 aziende, 250 estere, al centro dell'evento le nuove tecnologie, la sostenibilità, il risparmio e la produzione di energia negli edifici civili. E ad aprire l'evento infatti è stato un convegno internazionale dedicato al domani del mondo e all'Expo 2015, in cui si è parlato di nuovi scenari della crescita urbana sostenibile. Si è parlato anche però di piano casa. Il presidente della Lombardia Formigoni ha rivolto un appello ai comuni perché facciano in fretta le normative di applicazione, perché applichino in fretta le normative regionali di applicazione del piano casa. Sullo sfondo c'è il difficile passaggio che il settore costruzioni si trova ad affrontare. Il presidente di Federlegno Arredo Messina lo ha paragonato a una febbre, perché ci ha detto serve che i soldi promessi serve che i soldi promessi dal governo per le infrastrutture diventino reali e che si metta in campo un grande piano di ristrutturazione dell'edilizia pubblica a partire da quella scolastica. E dalla Fiera di Milano è tutto. Grazie Paolo, e noi apriamo la pagina sportiva con una notizia battuta proprio adesso dalle agenzie che riguarda la Formula 1. Oggi è stato il giorno di Fernando Alonso. Questa mattina a Valencia in Spagna il nuovo pilota della Ferrari ha fatto compiere i primi passi alla sua F10. La vettura rossa con il numero 8 è uscita per la prima volta dai box alle 10 per il giro di installazione. La nuova Ferrari è stata subito molto veloce, questo riferiscono le agenzie. E poi c'è il calcio, stasera la Fiorentina sfida l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, domani vi ricordo c'è Roma-Udinese. Intanto un linguaggio più pulito in campo è quello che chiede ai calciatori il presidente del CONI Petrucci. José Mourinho dice di non averle mai sentite. Sarà, ma certo che il labiale di molti giocatori visto in TV è inequivocabile. Figurarsi dal vivo. E allora il presidente del CONI Petrucci lancia l'anatema. Basta bestemmie nel calcio, tuona il numero uno dello sport italiano. L'input sarebbe già stato trasmesso al presidente della Federcalcio Abete, che dovrà a sua volta trasmetterlo ai presidenti delle società, agli allenatori e ai giocatori. Legittima l'osservazione di Petrucci. Non se ne può più, dice, così roviniamo uno spettacolo straordinario. Difficile però immaginare come attuare eventuali provvedimenti disciplinari. Probabile che alla fine tocchi all'arbitro far tacere le lingue più blasfeme a forza di cartellini gialli e rossi. E poi, al peggio, alla fine c'è sempre la prova TV. Insomma, nel football come al Grande Fratello, espulsi per bestemmia. Giusta deriva del calcio reality. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. E prima di salutarvi vi ricordo la notizia che vi abbiamo riferito durante proprio questa edizione di GR24, è stata battuta da poco dalle agenzie, arriva dall'Afghanistan dove una bomba esplosa contro una pattuglia di militari italiani. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, un soldato ha riportato un sospetto trauma cranico, mentre gli altri quattro che si trovavano a bordo del blindato Lince solo leggere contusioni. È davvero tutto per questa edizione, grazie in regia a Pietro Lacorte. Vi lascio all'Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.